tu sei fedele, il flutto m'aspetta. Se molle di pianto la donna diletta, dicendomi addio, dicendomi addio, tradì l'amor mio, tradì l'amor mio, con l'acere vele l'alma in tempesta, i solchi soffranger nell'onda funesta, l'averno ed il cielo irati sfidar, l'averno ed il cielo irati sfidar. Sollecita esplora divina, gli eventi non possono i fulmin, la rabbia dei venti, la morte, l'amore, sviarmi dal mar. L'amore, sviarmi dal mar. Sull'agile prora che m'agita il grembo, se scosso mi sveglio ai fischi del nembo, ripeto fra tuoni, ripeto fra tuoni, le dolci canzoni, le dolci canzoni, le dolci canzoni del tetto natio, che i baci ricordan dell'ultimo addio, e tutte raccendono le forze del cuor, e tutte raccendono le forze del cuor. Su dunque risuoni la tua profezia di ciò che può sorger dal fato qualsia nell'anime nostre, non entra terror, non entra terror nell'anime nostre, non entra terror nell'anime nostre, non entra terror. Per sempre, o luce mia, a te verrà il mio palpito, sotto qual ciel tu sia, chiusa alla tua memoria, nell'intimo del cuore. Come se fosse l'ultimo.

mi chiama volare io deggio a lei il serto mio darei per consolar quel cor il serto mio darei per consolar quel cor ma sappia al fin chi l'ama conosca al fin chi sono apprenda che anco in trono degli schiavi amor ma apprenda canto in trono canto in trono degli schiavi Possente amor mi chiama volare io deggio a lei il serto mio darei per consolar quel cor certo mio darei per consolar quel cor ma sappia al fin chi l'ama conosca al fin chi sono apprenda anche in trono degli schiavi amor ma apprenda anche in trono anche in trono degli schiavi sogno si avverasse un esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il plauso di Menfi tutta e a te mia dolce Aida tornar di là ricinto dirti per te ho pugnato per te ho vinto celeste Cheers.

per poco in cielo acquetati, o grido dell'onore, tu avrai sicuro vindice questo un tal vero, o mio suor, o infamia, così questo tal vero, si lavero, o mio suor, o infamia, così questo un tal si questo. Questo un talavero. O mio rimorso infamia, io vissi in tal errore, ma il turpe sonno frangere il vermi malero. Per poco in cielo acquetati, o grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice questo un tal vero. O mio sor, o infamia, così questo un tal vero, si lavero, o mio rossor, o infamia, o si questo un pessi questo tal lavero, questo un questo un tal vero.

Purché sul tuo bel viso venga a brillare il riso, gli stenti suoi le pene non scorderà. Oh, gli stenti suoi le pene non scorderà. Suprema, un altro ed è mio padre, un altro e questo è il re, lei che adoro m'ha rapita, la sposa a me promessa. Perdoa. occhi miei. Se cielo e terra, se mortali ed angeli attestarmi volesse che la non è rea, mentite, io rispondere dovrei. Tutti mentite. Son cifre sue. Tanta perfidia, un'alma sì nera, sì mendace. Bella conobbe il padre, ma dunque i giuri, le speranze, la gioia, le lacrime, l'affanno, tutto è menzogna, tradimento. Vita inferno all'infelice, in vano morte desio. Si Thank you. ne sto la scure. Oh, qua